Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. C'è il rapporto dell'Istat, che è un rapporto chiaramente tutto dedicato anche agli effetti del coronavirus. In realtà è il rapporto annuale dell'Istituto Nazionale di Statistica, però ovviamente il presidente Blangiardo, in occasione della presentazione alla Camera del rapporto annuale, si è concentrato molto sugli effetti economici del coronavirus, ma anche sociali. La notizia che il 12% delle imprese pensa di ridurre l'occupazione, che la crisi scatenata dal Covid va a allargare o rischia di allargare i divari già presenti nel paese, e anche alcune stime su quanti lavoratori potrebbero lavorare da casa. E ripeto, un rapporto economico ma anche di carattere sociale. Per esempio, l'Istat fa notare che, per quello che riguarda la famosa scala sociale, è più probabile scendere che salire. La classe di origine influisce meno sulla collocazione sociale che si raggiunge all'età di 30 anni rispetto al passato, anche se pesa ancora in maniera rilevante. Dicevo, le disuguaglianze che vengono aumentate dal Covid, anche perché l'epidemia colpisce gli strati sociali più deboli, e altri elementi, per esempio sulle attese per fare una famiglia, c'è una bassa fecondità in costante calo dal 2010. Poi l'Istat stima che la paura Covid abbia e possa portare a poco meno di 10.000 nati in meno, un terzo nel 2020 per due terzi nel 2021. Poi anche un riferimento alla situazione sanitaria del paese, con una critica a quello che è successo negli ultimi anni o negli ultimi decenni, perché si è passati da 356.000 posti letto, pari a 6,3 posti letto per 1.000 abitanti, come posti letto ospedalieri, a 211.000 nel 2018, quindi dimezzati, 3,5 ogni 1.000 abitanti. E l'Istat fa notare che siamo sotto la media europea, che è di 5 posti letto ogni 1.000 abitanti, e in Germania è di 8 posti letto ogni 1.000 abitanti, quindi non dico tripla, ma più che doppia rispetto a quella attuale italiana. E noi invece nel 95 eravamo sopra la media attuale in Europa di 6,3 posti. E poi sottolinea l'Istat che mancano medici e infermieri, la spesa sanitaria è al palo, dal 2010 al 2018 è aumentata solo dello 0,2%, contro una crescita economica dell'1,2%, tant'è che la spesa per investimenti delle aziende sanitarie è scesa dai 2 miliardi e 400 milioni nel 2013 a poco più di 1 miliardo e 400 milioni nel 2018, e questo la dice lunga su come dal 2010 al 2018 si sia deciso di andare a tagliare dove tagliare. Allora è chiaro che non è che tutta la spesa sanitaria sia sempre produttiva, abbiamo raccontato molte volte anche in tema di spending review quanti sprechi vi fossero nella spesa sanitaria, però quello che mi sembra abbastanza chiaro anche dal rapporto dell'Istat è che in questi 9 anni è stato più facile ridurre i trasferimenti e quindi la spesa sanitaria che non ridurre altri costi della pubblica amministrazione, e ce ne sarebbero, e quindi la famosa spending review che non si riesce a applicare per un insieme di interessi precostituiti e anche di interessi elettorali, perché chiaramente se tagli la spesa devi fare scontento qualcuno. Comunque ne parleremo in apertura, poi parleremo anche di quello che sta capitando alla Liguria, non tanto, no, almeno tutta la mia solidarietà agli italiani che in questo momento sono in viaggio verso la Liguria, soprattutto da Genova a Savona. Ne abbiamo parlato anche con il responsabile della rete di Autostrade per l'Italia in questa settimana, si è creato usiamo il termine imbuto per una diverse interpretazioni di quello che avrebbero dovuto fare, avrebbero dovuto essere i controlli nella fase 1 sulle cosiddette canaline, insomma, dove scola l'acqua di gallerie fatte negli anni 50, il Ministero non ha voluto dare più tempo e quindi il fatto di dover iniziare tutti i controlli entro il 30 giugno ha di fatto concentrato tutti i lavori in questo periodo. Il problema qual è? Che al di là del turismo, stanno pensando in Liguria anche una class action, c'è un tema enorme che riguarda invece il porto di Genova, come scrive oggi in prima pagina il Sole 24 Ore, perché se anche questa mattina l'intera viabilità di Genova è andata in tilt con chilometri di code dovute al prolungamento inatteso della chiusura del tratto della 10 tra l'allacciamento con l'A26 e Arenzano in direzione Savona, si è arrivati a fare 20 chilometri di code in città da San Pierdarena ad Arenzano, poi il tratto è stato riaperto, ha fatto notizia a scalpore il fatto che il colosso cinese Costco ha invitato i suoi clienti a utilizzare altri porti e altre rotte rispetto a quello di Genova, perché dice i TIR non riescono a raggiungere il porto di Genova con i container fermi nei piazzali perché i clienti non riescono a ritirarli. Costco, che è uno dei colossi mondiali nello shipping, nel senso che è il terzo operatore mondiale dei container dopo la compagnia svizzera, quella di Aponte, MSC, e il leader nel settore che è la danese Maersk Line, e poi c'è la cinese Costco, e ha detto ha invitato quindi a utilizzare altri porti come La Spezia, Ravenna, Trieste e Venezia. I camion non riescono a entrare nel porto con il casello di Genova Ovest bloccato nelle ore cruciali. Tra l'altro Genova è, poi lo diremo, tra i porti quello che ha la minor quota di intermodalità, cioè ha la maggior parte dei container che viaggiano su camion e non su ferrovia, a differenza per esempio di Trieste, ma anche di Ravenna, dove si sta investendo molto su quel fronte, ed ecco perché diventa, se non ricordo male, a Genova solo il 10% di quello che viene scaricato è di carattere intermodale, ed ecco perché è particolarmente critica la situazione, visto che visto che il 90% dei container è di carattere viaggia su gomme, non su ferrovia. Faccio notare che i porti liguri però di Genova, Savona e La Spezia non è incluso in questo, ma da soli fanno circa il 50% dei container che vanno a destinazione. Quindi attenzione, perché dico Genova, ma c'è anche Voltri e Savona, quindi tutta quella parte lì è bloccata. Mi sta scrivendo un autista, un operatore di trasporti eccezionali, dice che sono alla disperazione. Sono mesi e mesi che per scendere da Genova, vediamo se riesco a riprendere il messaggio, che per scendere da Genova ci sono sempre problemi, ultimamente la situazione è ancora più aggravata. E di questo stiamo parlando, sì, lei lavora nei trasporti eccezionali, ma qui c'è anche il tema dei container che devono essere caricati sui camion. Vedo anche molti messaggi, dunque, sull'ASPI. L'ASPI ci ha risposto che aveva fatto i controlli della fase 1 al 95% in tutte le gallerie, poi il Ministero gli ha detto no, noi in quei controlli vogliamo che venga fatta anche gli ondulati che coprono, diciamo, che rivestono la galleria, sono gallerie molto vecchie fatte negli anni 50, quindi non rese impermeabili in fase di costruzione, e loro avevano chiesto più tempo a questo punto perché voleva dire rifare le verifiche su tutte le gallerie. Il Ministero gli ha detto no, il tempo rimane invariato, entro il 30 giugno devi partire, e quindi quello che è successo è, diciamo, non so se sia un'eterogenesi dei fini o un combinato disposto come mi scrive qualcuno, il punto vero è che è un casino, ed è un casino sia sul fronte turistico. E lì tu dici, vabbè, cavoli dei poveri cittadini che stanno 4-6 ore per arrivare a Genova, e c'è una componente economica, e poi anche dalla parte di approvvigionamento dei container. Quando il terzo gruppo al mondo dice per favore utilizzate altri porti e non Genova, voi capite bene a che livello siamo arrivati. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Per quello che sì, qualcuno mi dice, ma non si potevano fare i lavori delle canaline durante il lockdown? Aspici ha risposto che in quello che è la legge degli anni 60, che è vaga, per loro questo non rientrava nella fase 1 ma nella fase 2. Il ministero gli ha detto no, rientra nella fase 1. Lì forse si poteva dare più tempo o valutare bene l'impatto di una riapertura di tutti i cantieri in un tempo così breve. Io commento il risultato, però, che è un grandissimo caos. Dicevo invece, per quello che riguarda i mercati, oggi Wall Street è chiusa perché insomma, domani si festeggia, si fa per dire, perché l'invito è stato alla stragrande maggioranza degli americani e degli statunitensi a restare a casa, ma domani è festa per il 4 luglio, e quindi le borse viaggiano, come si dice, senza Wall Street. Parigi meno 1,1, Francoforte meno 0,90, Londra meno 1,45, Milano meno 1,08%. Tra i titoli che cedono di più, Pirelli meno 3,20, CNH meno 2,5 come Moncler e Snam, Leonardo meno 2,30 come Tenaris, e Banca Mediolanum il 2% lo perde Telecom, l'1,70 Unicredit, l'1,5 il calo di Terna e Buzzi Unicem, ma anche di Italgas ed Exor. Fronte opposto, Ubi più 2,40 e Steam Electronics più 0,40%, sono gli unici due titoli, e assieme a Recordati più 0,20, in crescita in questo momento. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, andiamo rapidamente con le notizie in breve. Allora, notizie, parlavamo degli Stati Uniti, avete visto, purtroppo c'è stato un altro record di contagi in 24 ore, 53.000 casi. Il Center for Disease Control and Prevention prevede 148.000 morti entro il prossimo 25 luglio, il che significa altri 20.000 decessi, visto che in questo momento i decessi negli Stati Uniti sono 128.000, da qua al 25 luglio. Nel frattempo Londra ha abolito la quarantena per gli arrivi dall'Italia, e quindi da venerdì 10 luglio, non da lunedì, ma da venerdì 10 luglio, per chi arriva dall'Italia e da altri 50 paesi a tasso controllato di contagio da coronavirus non ci sarà più l'obbligo di quarantena, quindi oltre quindi 14 giorni obbligatori, che la Gran Bretagna ha imposto dall'8 giugno a chiunque arrivi o rientri nel Regno Unito. Oltre all'Italia ci sono anche Francia, Spagna e Germania, non gli Stati Uniti, non la Svezia e né il Portogallo. Ecco, speriamo che quanto è successo in Veneto non cambi la prospettiva anche dell'Italia. Adesso non è tema di questo programma, oddio, però ha ragione, a mio avviso, il presidente della regione Zaia. Cioè, se un imprenditore che era stato in Serbia viene beccato positivo, si rifiuta di essere ricoverato, la sanzione non possono essere 1.000 euro, cioè occorre o il trattamento sanatorio, cioè, TSO esiste in questo paese, quindi o gli obblighi il trattamento sanitario, quindi trattamento sanitario obbligatorio, o troviamo un altro modo, perché adesso, voglio dire, sta succedendo. Non è che si può solo confidare o essere fiduciosi, per essere più corretti, così, nel senso di responsabilità dell'individuo. Questo soggetto chiaramente il senso di responsabilità non ce l'ha avuto, perché se ti beccano positivo e ti dicono che devono ricoverarti e tu ti rifiuti e vai in giro, guarda che cosa hai creato. Vabbè, andiamo sull'Italia, dove lo spread è a 168 punti, il BTP Futura vedrà il collocamento da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio, e tra l'altro avrà tassi cedolari minimi garantiti e pari all'1,15, all'1,30 e all'1,45%. Lunedì appunto inizierà il collocamento. L'indice PMI del settore servizi, quindi responsabili acquisti del settore servizi in Italia, è rimasto fermo a giugno a 46,4 punti, un po' più basso rispetto alle attese degli analisti a 47 punti. In Europa è a 48, nell'area euro a 48,3 punti, è salito a 47 punti in Germania. Il DL semplificazione dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri lunedì pomeriggio o martedì mattina, con un testo che potrà andare direttamente in Gazzetta. È un decreto legge, quindi va in Gazzetta e poi va convertito quello che sta in legge. Quello che sta avvenendo al DL invece rilancio, che è già un decreto, deve essere convertito in legge dal Parlamento. Stiamo affrontando, ha detto Ministro Patronelli, i nodi in pre-consiglio. Non ci saranno condoni, vi sarà un intervento sul codice degli appalti, anche perché se si chiama DL semplificazione è ovvio che dovrà intervenire anche sul codice degli appalti. Dice Patronelli, quello è un piccolo pezzo del procedimento che porta alla realizzazione di un'opera, dobbiamo intervenire anche sulla parte autorizzativa dei progetti, perché quella è la parte in cui si perde più tempo. Abbiamo bisogno di essere più rapidi, efficaci ed efficienti in tutta la parte autorizzativa. E questo per il DL semplificazioni. Il DL rilancio, che invece deve essere appunto tramutato in legge, ed è già un decreto, viene esaminato, è stato esaminato in commissione bilancio della Camera. Ci sono delle novità, c'è un emendamento che prevede, che porta all'estensione del congedo parentale dal 31 luglio al 31 agosto, quello per il quale i genitori di bambini fino a 12 anni possono chiedere un congedo fino a 30 giorni a testa al 50% della retribuzione. E poi va a prorogare i contratti di apprendistato o a termine anche in somministrazione quando sospesi dell'attività lavorativa a causa delle misure anti-Covid, la quota anche per favorire l'assunzione delle categorie protette si applica anche ai cosiddetti care leavers, cioè i maggiorenni che per motivi giudiziari hanno vissuto fuori dal nucleo familiare, magari perché erano in affidamento in comunità o in casa famiglia. Poi c'è un super bonus del 110%, il super bonus del 110% che si applicherà anche alla ristrutturazione degli spogliatoi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. I progetti per i centri estivi sono estesi alla fascia degli 0 ai 16 anni e ci sono 150 milioni aggiuntivi di finanziamento. Inizialmente il provvedimento prevedeva progetti destinati alla fascia tra i 3 e i 14 anni, viene estesa a 0 ai 16 anni. Poi 200 milioni di euro per la ripresa delle attività produttive in sicurezza da parte delle imprese, anche un emendamento da 6 milioni di euro per i frontalieri, in favore dei lavoratori frontalieri, e poi anche un incentivo alla rottamazione delle auto, sempre nel DL rilancio. Ancora due notizie, poi andiamo sul meteo e iniziamo a parlare del rapporto Istat. Sapete che monitoriamo ogni giorno l'andamento anche del fondo di garanzia, delle domande arrivate al fondo di garanzia. L'ABI oggi ha segnalato che a ieri le domande pervenute dalle banche al fondo di garanzia sono arrivate a 764.000, di cui per un valore di 45 miliardi. Di cui la stragrande maggioranza, 670.000, per domanda di finanziamento fino a 30.000 euro, e mentre le altre 100.000 vanno per i finanziamenti più alti. Infatti le 670.000 valgono 13,4 miliardi, le altre 100.000 valgono oltre 30 miliardi perché sono per importi più elevati. Ancora sul bonus vacanze siamo arrivati a 225.000 richieste, non richieste, utilizzo, per un controvalore di 100 milioni di euro e così, secondo il ministro Pisano che lo ha riferito oggi, 1.500 nuclei lo hanno già speso. Faccio notare che da molte segnalazioni che ci arrivano, mentre cassa integrazione in parte è ancora in ritardo, mentre sul fondo di garanzia si sono un po' placate le lamentele, ma ancora qualcuno mi segnala che la banca gli ha rifiutato i 30.000 euro, quello che sembra che stia funzionando molto bene è invece i soldi a fondo perduto, i 6 miliardi e 400 milioni che il governo ha stanziato, ricorderete, fino al 20%, il 20% della differenza di ricavi tra aprile 2020 e aprile 2019, a patto che il calo sia più alto del 33% rispetto all'anno prima, e poi va a scendere, questo fino a 400.000, poi scende a 15%, fino al 10%. Quello sta funzionando bene perché è in mano all'Agenzia delle Entrate, lo dico. Il problema della cassa integrazione è stato anche la lentezza con cui l'INPS e i 600 euro con cui l'INPS li ha erogati. Evidentemente funziona meglio l'Agenzia delle Entrate dell'INPS, anche come mole, per carità. E il problema dei prestiti garantiti dallo Stato è stato anche la lentezza di alcune banche. Alcune hanno voluto fare anche le furbe, e poi mancava lo scudo che tutelasse chiaramente i responsabili delle banche quando vanno a erogare un credito. Ne abbiamo parlato molte volte, in parte risolto dall'autocertificazione, in parte risolto. Comunque va detto che per quello che riguarda i soldi a fondo perduto, tutte le segnalazioni che ci arrivano è di un processo che, una volta approvato, porta i soldi, diciamo, a essere depositati in poco più di una settimana. Tant'è che mi raccontava un imprenditore che si è visto improvvisamente sul conto corrente 27.000 euro, Agenzia delle Entrate, ha subito pensato cosa è successo, cosa ho combinato, poi si è accorto che erano ad avere, non a dare. È abbastanza strano trovare in un conto corrente la voce Agenzia delle Entrate che ti dia qualcosa, forse è la prima volta nella storia in questo modo, ma sta funzionando in maniera abbastanza veloce. Incredibile invece la vicenda della truffa telefonica. Incredibile perché ci sono 10 indagati nell'inchiesta della Procura di Milano sulle truffe nei confronti di centinaia di utenti delle compagnie telefoniche che si sono visti addebitare dei servizi di pagamento senza aver mai dato il consenso. Perquisizioni e sequestri sono stati effettuati nella sede legale di Wind 3 dagli uomini del nucleo speciale della Guardia di Finanza, e la Procura ha inviato una lettera contestualmente all'autorità garante per le comunicazioni in relazione alla posizione di Vodafone, TIM e di un'altra società. Migliaia di clienti vittime, secondo migliaia di clienti delle tre più importanti compagnie telefoniche italiane, appunto Wind 3, Vodafone e TIM, a cui sono stati accreditati importi non dovuti per attivazione in debito dei cosiddetti servizi a valore aggiunto sul proprio dispositivo mobile. L'inchiesta della Procura di Milano, come ha detto il Procuratore della Repubblica Francesco Greco, è il sintomo di una situazione che deve essere sottoposta al controllo, altrimenti il cittadino diventa oggetto delle peggiori scorrerie. La cosa incredibile è che lo stesso Procuratore Capo di Milano, Francesco Greco, ha ricordato oggi in conferenza stampa di essere stato anche lui vittima di questa truffa. Mi sono accorto tempo fa che pagavo 20 euro al bimestre per acquisto di giochi con addebito a società offshore senza aver mai dato il consenso. L'unica consolazione, ha detto Greco, è che in questo tipo di operazione a danno del consumatore c'è molta democrazia, perché può capitare al procuratore della Repubblica di Milano come al vecchietto. E dico, dei geni anche questi, che già vedremo le accuse, ma insomma l'accusa è pesante, di truffa, per di più vai a truffare il procuratore capo di Milano, sei veramente la banda del buco. Comunque 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su meteo e pubblicità. Focus Economia. Allora, rapporto annuale dell'Istat, che è ancora più annuale, nel senso che si occupa proprio di questi mesi, della ricaduta del Covid, degli effetti del Covid sull'economia, scusatemi. Allora, dopo una flessione ulteriore nel secondo trimestre, l'Istat prevede che si possa registrare un aumento nel secondo semestre dell'anno e stima una caduta del PIL italiano dell'8,3%. Adesso lo dico, ci metterei la firma, perché abbiamo visto Fondo Monetario, OCSE e anche Banca d'Italia avere stime peggiori, addirittura tra l'11, il 12 e in alcuni casi il 13%. L'8% sarebbe un livello molto vicino a quello che stima la Germania, il suo crollo del PIL, e ripeto, ci metterei la firma, l'8,3%, magari faremo anche meglio dell'8,3%, però andando avanti, invece nel 2021 la stima dell'Istat è un più 4,6%, quindi vuol dire in sostanza che l'anno prossimo recupereremo la metà, meno, perché in realtà non è così, ma insomma, per farmi capire, di quanto abbiamo perso quest'anno. E poi il capo dell'Istat, Blangiardo, ha detto ci sono i primi segnali di una reazione dell'economia dopo la caduta, però attenzione, a fine aprile quasi due terzi delle 800.000 società di capitale avevano liquidità sufficiente a operare almeno fino a fine del 2020, ma un terzo era a fine aprile in condizioni di liquidità precarie. E poi il 12%, proprio il problema del reperimento della liquidità è molto diffuso e ha un contraccolpo, dice sempre Blangiardo, sugli investimenti, tant'è che un'impresa su 8, ossia il 12%, pensa di ridurre l'occupazione nei prossimi mesi. E poi l'Istat stima che dai dati provvisori siano stati in cassa integrazione 3 milioni e mezzo di lavoratori ad aprile. Sempre ad aprile un terzo degli occupati, 8 milioni, non ha lavorato. Andiamo poi, tra l'altro ha detto Blangiardo, invece a maggio sono calati i lavoratori in cassa integrazione a 2 milioni e mezzo contro i 3 milioni e mezzo di aprile. La cosa più forte, quando, a mio avviso, è quando Blangiardo dice attenzione che come effetto del Covid vi sarà purtroppo anche un aumento dei divari già presenti, delle disuguaglianze già presenti nel nostro paese, anche perché quando si dice che il 12% delle imprese pensa di tagliare la forza lavoro, questo andrà a colpire soprattutto le fasce più deboli, cioè giovani e donne. Poi ricorda l'Istat che la didattica a distanza ha visto in svantaggio i bambini e ragazzi del mezzogiorno che vivono in famiglie con un basso livello di istruzione e di reddito. Sul fronte sia della povertà assoluta sia delle disuguaglianze nel mercato del lavoro, l'Italia è entrata nell'emergenza Covid-19 dopo aver vissuto un periodo di costante peggioramento della situazione. Basti ricordare che a seguito della crisi del 2008 l'incidenza della povertà assoluta si è raddoppiata nel 2012 e da quel momento in poi il livello non si è più ridotto fino al 2019, allorché l'incidenza tra le famiglie è passata dal 7% del 2018 al 6,4% e quella degli individui dall'8,4% al 7,7%. Le disuguaglianze sono aumentate anche nel mercato del lavoro. Gli uomini, i giovani di 25-34 anni, il mezzogiorno, i meno istruiti, non hanno ancora recuperato i livelli e i tassi di occupazione dal 2008. Inoltre, mentre la crisi partita allora ha interessato soprattutto i settori ad alta presenza maschile, oggi le criticità maggiori stanno investendo i servizi, in particolare il turismo e la ristorazione, ambiti più connotati da una presenza femminile. Sì, in effetti quello che dice Blangiardo è attenzione, la crisi del 2008-2009 nascendo come crisi finanziaria e poi diventando anche una crisi di 2010-2011 di attacco ai debiti sovrani aveva colpito soprattutto i grandi gruppi bancari ma anche la capacità di erogare credito e quant'altro alle grandi imprese, però aveva tenuto fuori abbastanza fuori il settore dei servizi, soprattutto servizi da clientela come turismo, ristorazione e quant'altro, che è invece esattamente l'opposto di quanto sta avvenendo adesso. Noi speriamo e ci auguriamo che le industrie manifatturiere, pur con un calo della domanda mondiale, tornino il più possibile vicino ai livelli di fatturato pre-Covid, e invece non c'è nessuna possibilità che questo avvenga per interi settori. Citavo ieri il settore dei matrimoni, del catering, del turismo in varie forme della ristorazione in altre forme, quindi per non parlare di tutti i settori coinvolti nello smart working in senso negativo, cioè tutti i ristoranti, i bar e i servizi commerciali che non stanno nemmeno aprendo perché ci sono intere aree urbane delle nostre metropoli dove, mancando i lavoratori, manca anche chi vada a bersi un cappuccino o mangiarsi un panino. E a questo proposito l'Istat dice: durante il lockdown la cosa interessante è che la quota di chi ha lavorato da casa è aumentata, coinvolgendo 4 milioni di occupati. La stima dell'ampiezza potenziale del lavoro da remoto, basata sulle caratteristiche delle professioni, porta a contare 8,2 milioni di occupati cioè, che potrebbero lavorare da casa, il 35,7%. Però è impressionante come nei mesi del lockdown ci sono stati almeno 4 milioni di occupati che hanno lavorato da casa. L'anno scorso, in tutto il 2019, vi è stato meno di 1 milione di occupati che ha lavorato da casa. Alessandro Rosina, docente di demografia alla Facoltà di Economia alla Cattolica di Milano, buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Allora, professore, partiamo dalla parte economica, è tutta ancora da l'Istat ha mantenuto le sue stime sul calo del PIL quest'anno, sul parziale recupero l'anno prossimo. Ha poi ricordato che 1 milione di famiglie vive di lavoro irregolare e poi ha detto che tra le donne è alta, anche se non maggioritaria, la diffusione dei cosiddetti contratti antisociali, quelli lavori serali, notturni nel fine settimana. Vabbè, si fa per dire. Che cos'è la cosa che più l'ha impressionata del rapporto Istat? Il fatto che sottolinei con forza, Blangiardo, che aumenteranno le disuguaglianze già presenti a causa del Covid? Beh, questo è secondo me sì, il messaggio principale che ha voluto dare Blangiardo ed è quello che emerge in maniera più evidente dai dati a disposizione. L'Istat ha fatto questo sforzo, cioè ha usato il rapporto annuale non solo per raccontarci come era andato il 2019, ma mettendo dentro anche le evidenze che si possono avere per il 2020, perché appunto l'interesse è capire questo. E però è la combinazione delle due informazioni che adesso entra in questo rapporto annuale che è particolarmente preoccupante e che già immaginavamo, ma adesso emerge in tutta la sua condizione impietosa. C'è un paese che già nel 2019 era un paese con delle fratture evidenti, fratture inefficienze e fratture sociali, e che ha subito poi un contraccolpo particolarmente forte e che le ha reso queste fratture ancora più ampie, e quindi non solo la questione generazionale, quindi il lavoro soprattutto dei giovani, non solo la questione di genere, quindi la difficoltà occupazionale delle donne, e teniamo presente appunto che il tasso di occupazione degli under 35 era nel 2019 tra i più bassi in Europa, l'occupazione femminile tra le più basse in Europa, quindi queste due questioni poi si intrecciano però con le questioni sociali e con gli squilibri demografici. E quindi è un paese che con la scossa del Covid ha messo ancora più in evidenza tutto quello che non funzionava e tutte le sue fragilità. Ora che ce le abbiamo così ben chiare davanti e ben messe in luce, dobbiamo capire che cosa vogliamo fare, cioè se è questo il paese che vogliamo gestire, cercando di ridurre i costi di un paese che non riesce a rendere le nuove generazioni risorsa per la crescita del paese, che non riesce a rendere il capitale umano femminile come spinta con le proprie competenze per un paese che trova una sua solida via per lo sviluppo, che migliorando la condizione dei giovani, perché poi quelli sono nei contesti territoriali più svantaggiati, nei contesti sociali di maggiore difficoltà, che soffrono maggiormente la difficoltà di formarsi bene, essere inseriti bene nel mondo del lavoro, e sono soprattutto le donne delle classi sociali più basse, nei contesti soprattutto nel sud, che trovano più difficoltà. Questo fa capire che se noi avessimo una visione sistemica di un paese che riconosce le risorse da mettere in campo e che parte dal migliorare le possibilità di crescita economica, di sviluppo e di produzione di benessere, mettendo in campo i giovani che partono da più indietro e che quindi possono dare il miglior contributo se formati e inseriti bene, e il capitale umano femminile è messo pienamente in campo con tutte le sue potenzialità e con le scelte femminili riviste al rialzo, sia che riguarda una professione, sia che riguarda le scelte di vita, avremo un paese che cresce meglio, migliore condizione occupazionale dei giovani, migliore occupazione femminile, riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, sì. E la discontinuità del Covid che finalmente ha messo il paese davanti a delle scelte, diciamo, che portano a individuare un vero percorso, sì, che non sia semplicemente una gestione del presente e continue falle che continua a presentare, che poi si allargano quando appunto ci sono crisi come queste, e semplicemente limitarsi a mettere delle toppe qua e là. No, ma allora, per carità, io ho sempre detto fin dall'inizio di questa maledetta crisi che un conto erano i provvedimenti che ho chiamato appunto apposta tampone, e cioè quelli che metti per coprire le falle di quello che stava capitando, e i provvedimenti tampone sono stati 600 euro, lo è la cassa integrazione, lo è stato il reddito di emergenza, lo sono gli investimenti a fondo, i soldi a fondo perduto e anche i prestiti con garanzia dello Stato. Tutto questo, diciamo, è un elemento tampone. Poi però non vorrei che si perdesse, ecco perché mi piacerebbe capire qual è poi la sintesi degli stati generali, che ne è stato del piano Colao, cioè mentre tu cerchi di salvare il paziente, e mi dispiace usare questo termine, però è chiaro che di fronte a questa crisi ci siamo presentati con diversi anticorpi, continuiamo con questo esempio, questa metafora, un paese più debole o un corpo economico più debole come quello italiano è chiaro che rischia di avere danni molto più forti, un po' come quando devi reagire a un attacco appunto virologico, e noi eravamo già deboli prima. A questo punto va bene curare il paziente, ma nel frattempo devi anche fargli cambiare lo stile di vita, Rosina, se posso interpretare il suo esempio. Cioè non basta dire adesso in questo modo io cerco di mantenerti in vita, poi però nel futuro attenzione, perché le fragilità che avevi te le portavi dietro dagli anni prima, è ovvio, poi ti arriva una cosa imprevista, il cigno nero, la sfiga massima, chiamatela come volete, e con le tue fragilità tu rischi di subire più di altri. Ed ecco perché vorrei vedere accanto al DL rilancio, DL semplificazione, poi un progetto di un paese. Questo sarebbero dovuti servire gli stati generali, cioè dove vogliamo puntare nei prossimi anni. Su questo però, Rosina, mi fa una battuta anche sul tema dello smart working, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Perché lo dico? Perché ha fatto notare appunto l'Istat che sono stati 4 milioni di lavoratori in smart working, il potenziale è di 8 milioni e 700 mila occupati. Ma secondo lei, io capisco, lo smart working ha molti vantaggi, anche dei grandi svantaggi, qualcuno mi fa notare, beh, decongestione al traffico, per carità, però noi in questi 20 anni, Rosina, abbiamo, non solo noi, la Francia, la Gran Bretagna, tutti i paesi occidentali, abbiamo molto puntato sulla riqualificazione urbana di intere aree dismesse, ex industriali, ex ferroviarie, non è solo Milano, vale per tante altre città. Che ne facciamo di queste aree urbane se decidiamo che adesso il lavoro si fa tendenzialmente da casa? O per meglio dire, non si può cambiare un modello di sviluppo in 2-3 mesi solo per colpa di un virus, o no? Assolutamente sì, però c'è forse un malinteso che riguarda lo smart working, che non è semplicemente telelavoro, cioè lo smart working dovrebbe consentire di rimettere in discussione le coordinate spazio-temporali delle modalità di lavoro e quindi consentire di lavorare meglio, essere più produttivi senza pensare ai vincoli temporali e ai vincoli di spazio come dei vincoli che devono essere per forza dati e scontati. Quindi l'idea è questa, si può lavorare meglio gestendo in maniera diversa i vincoli di tempo, orari, si può lavorare meglio non dando per scontato che si debba lavorare in ufficio nel luogo di lavoro. Questa scelta di rivedere queste coordinate spazio-temporali delle modalità di lavoro può essere una modalità win-win sia per l'impresa che per il lavoratore. Ecco, le soluzioni che consentono di andare in questa direzione sono quelle che fanno lavorare meglio, perché noi teniamo presente che non abbiamo solo un problema di bassa occupazione, di difficoltà di inclusione nel mondo del lavoro, abbiamo anche un problema di rapporto fra numero di ore lavorate ed effettiva produttività che evidenzia una fragilità del paese nella capacità di utilizzare in maniera adeguata l'impegno lavorativo in termini proprio di effettivo risultato che produce. E quindi noi dobbiamo pensare a come migliorare la produttività e il benessere durante il lavoro, non necessariamente nel luogo di lavoro e nei tempi stretti di lavoro. Che vuol dire che lo smart working può essere fatto a casa, può essere fatto in altri contesti, può essere fatto anche in treno, può essere fatto ovunque. L'importante è che non sia un vincolo, che sia una scelta e che poi consente al lavoratore di migliorare le proprie condizioni di benessere lavorativo e di essere più produttivo. Tutto questo, quello che va in questa direzione, supera le modalità di lavoro novecentesche e ci proietta in un ventunesimo secolo che effettivamente propone qualcosa che va al di là dell'impatto della crisi e che può essere effettivamente una spinta verso qualcosa di nuovo, che però appunto deve avere questi requisiti. Sì, qualcuno mi dice, sì Rosina, sono d'accordo con lei, però sono preoccupato sui tempi, perché il tempo è tutto in questi casi. Qualcuno mi scrive, guardi che il modello di sviluppo dello smart working è imposto dalla tecnologia, non dal Covid, volerlo impedire per salvare i bar è luddismo. No, non voglio essere luddista, cioè distruggere le macchine per salvare il lavoro degli operai come avvenne nell'Inghilterra di inizio 800, però in cui si andavano a distruggere i telai. Però resti con noi Rosina, ma io penso che il problema qui sia anche il tempo, cioè noi non possiamo dire improvvisamente per tre mesi di chiusura, adesso basta, intere aree le dobbiamo ridefinire, questi sono progetti che hanno un respiro di anni, allora tu non puoi aver puntato sulla riqualificazione urbana per l'edilizia, per uffici fino all'altro ieri, poi ti arriva un virus cinese e decidi che adesso si sta tutti o in buona parte a casa o non nel luogo fisico del lavoro. Però Rosina, le chiedo ancora qualche minuto con noi, ho il GR24 perché volevo commentare una sua chiosa su questo, ma anche l'ultimo tema che emerge oggi dall'Istat come effetto Covid, che è quello demografico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. e 7 minuti, ci sono i dati sui contagi, appunto le vittime sono scese per fortuna a 15 e invece i neopositivi sono saliti a 223, devo dire che altri dati in questo momento non vedo, e 15 vittime si sono registrate in 6 regioni, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio, e metà dei nuovi positivi sono in Lombardia. Ecco, però c'è anche un altro dato, 3 pazienti in meno in terapia intensiva sono 79, metà dei quali 41 in Lombardia, i ricoverati con sintomi sono 956, 7 in meno di ieri. Da questo punto di vista sono stati fatti oggi 77.000 tamponi nelle ultime 24 ore, 24.000 in più rispetto a ieri, quindi questo è anche importante per i neopositivi. Comunque, professor Rosina, volevo chiudere sul... Intanto ho visto moltissimi messaggi che sono arrivati sullo smart working o no, alcuni molto a favore, alcuni che dicono non si può perdere questa occasione per ammodernare anche la nostra pubblica amministrazione, altri che dicono no, guardate che qui salta tutto se continuiamo con lo smart working. Io non ho detto che lo smart working non vada bene, ci mancherebbe, lo stiamo applicando anche qui a Radio 24. Ho detto che cambiare improvvisamente un modello, diciamo, produttivo, non perché hai fatto una scelta, hai valutato le conseguenze, hai dato il tempo anche di rimodulare per esempio quella che è l'offerta urbana delle città, ma solo perché ti è arrivato un virus, solo tra virgolette, una pandemia dalla Cina, mi sembra diciamo, un'operazione in cui tu sostanzialmente subisci un fenomeno, non lo domini. Ma Rosina, vorrei anche lei sentire anche lei su questo di nuovo. Sì, no, infatti mi sembra del tutto ragionevole. Vuol dire che improvvisamente non è che si può cambiare dall'oggi al domani, che quindi tutto quello che abbiamo visto durante il lockdown dovrà essere appunto qualcosa che dovremo replicare semplicemente. Ci sono alcuni aspetti di un cambiamento di modalità di lavoro su cui possiamo fare un ripensamento, che vanno comunque in una certa direzione, che è quella appunto dello smart working, ma che ha bisogno dei suoi tempi, e comunque non è questo non vuol dire che tutti lavoreremo da casa, no. E che lavoreremo sempre da casa, dipenderà da alcune categorie, da alcune scelte che faranno alcune aziende, da alcune scelte che faranno alcuni lavoratori, con le ricadute comunque sul benessere lavorativo e sulla produttività che andranno monitorate, e che comunque potranno alternare momenti in cui si lavora nel luogo di lavoro o appunto in altri contesti, con una maggiore flessibilità in cambio di una maggiore responsabilizzazione poi sui risultati. Sì, tra l'altro attenzione, perché col massimo rispetto, però molte imprese, molti grandi gruppi, quelli che possono farlo, perché chiaramente continuano a prorogare il lavoro, diciamo così, da casa, no? Smart o non smart, anche se la legge non ti obbliga a stare nel luogo di residenza, perché non perché abbiano fatto una scelta strategica, una valutazione sulla produttività, chissà quanto efficace e quanto nel dettaglio, ma semplicemente perché fanno un calcolo molto basico: i costi del far entrare personale, sanificazione e quant'altro, e i rischi di beccarsi un focolaio, e allora dicono: sapete che c'è, visti i rischi, visti i costi, intanto manteniamo il maggior numero di dipendenti a casa quando questo è possibile, ok? Non c'è stata, è inutile girarci attorno, una grande analisi sull'efficienza della produttività. Io non saprei dirvi qual è l'efficienza della produttività dei lavoratori, per esempio del pubblico impiego, sia che siano comunali, regionali o statali, da casa. Non lo so, e penso che non lo sappia quasi nessuno. Si è fatta di necessità virtù, ma non è questo il modo di procedere. Rosina, invece, l'ultima suo commento lo vorrei sulla parte proprio della natalità, perché oggi Blangiardo ha detto: attenzione, gli italiani che desiderano in realtà i figli, e la maggior parte delle persone indica che l'ideale sarebbero due figli, però l'Istat stima che con la paura del Covid vi saranno 10.000 nati in meno. Già abbiamo un tasso di natalità che è ai minimi storici, un terzo nel 2020 e due terzi nel 2021. Ma è possibile che vada anche a ripercuotersi sulla natalità il Covid? Beh, assolutamente sì, perché comunque quali sono appunto le fonti che stanno alla base di formazione di famiglia e di figli? Sono i giovani, e sono appunto le giovani coppie, e su cui pesa appunto, come abbiamo detto, l'incertezza occupazionale da parte dei giovani, quindi la difficoltà accentuata nel lockdown, ma appunto in questa incertezza anche di ripresa tutta da ricostruire delle opportunità lavorative, di solidità su cui poi basare i loro progetti anche di vita oltre quelli professionali, quindi il rischio di rinviare ulteriormente, e che con rinvio che si somma al rinvio, perché già gli attuali trentenni, teniamo presente che sono la generazione che aveva anche subito la recessione precedente, e che aveva fatto che era in difficoltà comunque poi a ricostruire i propri percorsi di vita lavorativi dopo l'impatto della recessione precedente. Adesso si trovano appunto con questa difficoltà e questo impatto, e poi appunto teniamo presente che le difficoltà economiche delle giovani coppie, le difficoltà di conciliazione, che fanno parte anche qui, no, di strumenti su cui eravamo già carenti prima e che sono stati ulteriormente messi alla prova dalla crisi sanitaria, vanno a vincolare ulteriormente questa scelta, e quindi è molto verosimile che ci sarà una ulteriore caduta della natalità che andrà a inasprire ulteriormente gli squilibri demografici, e c'è da sperare però che dal 2021 in poi, in un paese che se torna effettivamente a crescere e a avere una prospettiva più solida verso il futuro, questi progetti possono essere recuperati, questo desiderio che comunque c'è, che l'Istat documentato, possa finalmente poi entrare nei veri progetti che i giovani e le giovani coppie si decidono effettivamente poi a realizzare. Ma lei fa bene, Rosina, a ricordare una cosa, che chi adesso ha 35 anni, adesso non voglio fare la gara la gara generazionale di chi sta peggio, ci mancherebbe, però chi adesso ha 35 anni, o giù di lì, si è beccato, finito il percorso di studio, immagino, comunque si è beccato verso i 22-23 anni la crisi del 2008-2009, poi anche 2011-2012, nel momento in cui teoricamente ti affacci al mercato del lavoro. E adesso, nel momento in cui, dico 35 per usare una mediana, così una media, stai pensando a creare una famiglia, ti becchi anche la crisi da Covid. Non, ripeto, non è una gara tra generazioni, ma sicuramente chi adesso ha tra i 35, 36, 34 anni, 37 anni, è una generazione particolarmente sfigata, se posso usare questo termine, perché non ha mai avuto, da quando, diciamo, è apparsa sul mercato del lavoro verso i 20 anni, 22 anni, un periodo sereno e tranquillo. Almeno la mia generazione ricorda molto bene come andranno le cose fino al 2007-2008 e l'espansione economica che fu dal 96 in poi. Almeno io posso dire che 10-12 anni di crescita economica, poi sarà stata drogata dalla finanza, quello che volete, ma li ho vissuti. Chi ha 35 anni adesso nemmeno quello. Grazie e comunque anche al professor Rosina, Alessandro Rosina, che è docente di demografia alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Ho il traffico e poi ci spostiamo, è una battuta, ci spostiamo in Liguria, perché in Liguria non ci si riesce a spostare. Continuo a vedere adesso messaggi che stanno arrivando, code chilometriche e addirittura anche una minaccia di un sposto in procura da parte di Toti, del governatore della Liguria. Ne parliamo dopo il traffico. Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Focus Economia. Dunque, andiamo con ordine. Di nuovo in tilt, questa volta l'intera viabilità di Genova. Questa mattina si sono registrati 20 km di coda in città, da San Pier d'Arena ad Arenzano, praticamente un unico serpentone che attraversava Genova, per il dovuto prolungamento in attesa della chiusura del tratto dell'A10 tra l'allacciamento con l'A26 appunto e Arenzano. Successivamente il tratto è stato riaperto e il presidente della regione Liguria Toti ha parlato di un'altra mattina di follia sulle autostrade della regione. E poco fa sempre Toti, l'assessore alla sanità Sonia Viale, hanno scritto ad ASPI, Autostrade per l'Italia, segnalando, si fa per dire, la criticità dei soccorsi sanitari in regione legati alle difficoltà nei trasporti autostradali, cioè le ambulanze del 118, la dico ancora più piatta. Chiedono di mitigare gli effetti dei cantieri e di informare comunque con tempestività la direzione del Dipartimento regionale emergenza 118. È venuto fuori un casino su questa vicenda. Poi, come sempre, in questo paese hanno tutti ragione. Ragione l'ASPI, ragione il Ministero. L'unico che ha torto è il povero automobilista che si infila nel traffico in questo momento in Liguria. Ancora, e non è solo l'automobilista inteso come cittadino italiano, oggi, come riporta Sole 24 Ore in apertura, addirittura il numero 3 al mondo nel trasporto container, la cinese Costco, ha scritto a tutti i clienti dicendo: non utilizzate il porto di Genova perché i container sono fermi nei piazzali e i tir non riescono a raggiungere il porto di Genova, e quindi ha inviato una lettera ai clienti in cui parla di un caos mai visto e sconsiglia di utilizzare Genova, di utilizzare porti alternativi come La Spezia, Ravenna, Trieste e Venezia. E proprio su Sole 24 Ore di oggi il direttore generale di Costco Italia, Marco Donati, ha detto: i camion non riescono ad entrare nel porto con il casello di Genova Ovest bloccato nelle ore cruciali, e i terminalisti non fanno sconti, sono pagati anche se non ritiriamo i container e anche se il container resta lì bloccato per cause di forza maggiore. E poi ha aggiunto: quello che sta accadendo a Genova è molto pericoloso, perché se un cliente è costretto a spostarsi altrove non è scontato che in futuro possa tornare indietro. Ora, attenzione, perché su questo Genova da sola, ecco, già su Genova Savona, Genova Volte, Savona, fanno, e La Spezia, fanno il 50% dei container che vanno a destinazione. C'è un problema ulteriore però, come segnala giustamente anche oggi Sole 24 Ore, che il porto di Genova rispetto a altri porti ha una bassa quantità intermodale. Cosa vuol dire intermodale? Quando tu carichi i container sul treno e poi in un altro spazio viene caricato eventualmente dal treno su un camion, ma non nel porto. Il porto di Genova invece, pensate, La Spezia ha una quota di intermodale che supera il 33%, e quindi un container su tre viene caricato sul treno, per dirla anche qui in maniera facile, mentre Genova su tutti i terminal non supera, quindi anche oltre, il 10-12%. Quindi significa che il 90% delle merci che arrivano a Genova viaggiano in su camion. Diverso il caso di Trieste e Ravenna, che sfruttano moltissimo i collegamenti ferroviari. Sia Trieste che Ravenna, ci sono anche investimenti per ampliare ancora la parte ferroviaria. Abbiamo raggiunto adesso il stavamo cercando, ecco perché prendevo leggermente tempo, il presidente di Asso Terminal, l'associazione dei terminalisti portuali, che aderisce a Confindustria, Luca Becce. Buonasera. Buonasera, scusatemi, ma purtroppo sono finito in una zona di non ricezione. Beh, esattamente quando mi chiamavate. Beh, tornando giusto appunto lei però è l'unico che riesce a muoversi in questo momento in Liguria, quindi abbiamo una doppia sfiga, perché di solito ero in coda no, comunque. Allora, voi rappresentate circa 3.000 addetti diretti e oltre 25.000 considerando anche gli spedizionieri, gli agenti marittimi, l'auto trasporto. Le faccio ascoltare intanto che cosa ha detto questa mattina 24 mattino il presidente dell'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori Betti Schiavoni. Sono i nostri porti naturali, La Spezia e Genova, e c'è il 50% del traffico della merce internazionale che si muove dai porti liguri. I porti liguri hanno sempre avuto dei problemi con le infrastrutture, però se tenete conto che c'è stato appunto il ponte Morandi. Se ci fosse stata la Gronda, forse qualcosa si sarebbe potuto evitare già all'epoca. Poi abbiamo avuto il lockdown, quindi comunque una diminuzione di traffici, tenuto conto, voglio dire, che le aziende produttrici sono state chiuse. A fine lockdown ci ritroviamo con un'autostrada paralizzata. Io che la faccio spesso vi posso assicurare che è un zigzag che oltretutto, voglio dire, non permette neanche una viabilità tranquilla e sicura. Quindi per il nord Italia, nord-est e nord-ovest è un disastro. Per la Lombardia rappresentiamo il 50% dei traffici, per il Piemonte il 20% e tra Veneto e Emilia-Romagna ha un altro 20%. C'è già stato un calo di traffico naturale. Se poi in aggiunta adesso anche la Cosco dice di andare su altri porti diversi rispetto a quello di Genova, quando per noi è il nostro porto naturale, voglio dire, è la nostra via di accesso ai mercati oltremare, quindi questo sicuramente ci ha lasciato molto perplessi. Non è solo far morire il nostro settore o comunque creare una congestione incredibile, ma è anche non permettere alle nostre aziende esportatrici, voglio dire, di rispettare dei termini e delle tempistiche sufficienti per far viaggiare le nostre merci. Non dobbiamo mai dimenticarci che siamo un paese esportatore, per noi porti e aeroporti sono i pilastri per lo sviluppo e la sostenibilità del nostro settore. Allora Becce, qual è la situazione adesso ed è vero che state valutando anche una class action e nei confronti di chi? Prego. Allora, noi abbiamo già presentato il 25 di maggio ultimo scorso un esposto alla Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento già avviato per le vicende connesse al Ponte Morandi, insieme ad altre associazioni artigianali del trasporto, perché vogliamo sapere dove sono finiti i soldi che per struttura tarifaria le autostrade avrebbero dovuto investire in manutenzioni che non sono state oggettivamente fatte. Ora stiamo valutando anche una class action, perché qui è evidente che emerge una situazione di danni estremamente rilevante. Per le cose che diceva la dottoressa Schiavoni, sono una parte del problema, una parte naturalmente prevalente, ma non sono la sola, perché appunto le annunci che vengono fatte oggi da una importante compagnia come Cosco, così come i blank sailing, cioè le cancellazioni di schedule che sono state già operate da diversi operatori importanti che scarano il porto di Savona, di Genova e di Savona, fanno sì che la situazione stia diventando drammatica. Abbiamo assistito per 2 mesi e mezzo al totale vuoto di attività nel momento in cui era possibile svolgere queste attività manutentive. Perché Autostrade per l'Italia noi ha detto, noi avevamo fatto gli accertamenti, i controlli della fase 1, li avevamo quasi ultimati, poi il Ministero ha voluto mettere anche le canaline Ecco. E quindi l'ondulato, e abbiamo dovuto riprendere tutti i controlli che avevamo già ultimato. Cioè, dice che non è vero che non avevano lavorato durante il lockdown. Barizzoni, io non so cosa sia vero e cosa no. Io vedo una cosa, vedo che qui tutti sono soprattutto preoccupati a dire che non è colpa loro. Io vedo che in questo paese, e mi pare che lei lo rappresenti spesso nelle sue trasmissioni, questa situazione di incertezza nella individuazione delle responsabilità e quindi anche nelle modifiche che devono essere fatte. Io credo che ci sia un'emergenza democratica in questo paese, che non è dovuta a pericoli comunisti o fascisti, è dovuta dal fatto che non funziona più lo Stato in nessuna delle sue articolazioni. Conflitti di competenze, lei prima citava il porto di Trieste, è stato appena decapitato e adesso reintegrato dal Presidente per un conflitto nell'interpretazione di una norma della Severino tra l'ANAC che è stato sanato dal TAR, ma intanto il porto è stato 20 giorni senza Presidente, che sono pochi fortunatamente perché il TAR è stato celere, ma se lei pensa al porto di Livorno che è stato per 8 mesi senza Presidente e senza Segretario Generale per una vicenda che ha portato alla sospensione, al porto di Ravenna o ad altri porti italiani. Cioè, qui siamo in presenza di una situazione di paralisi dello Stato che fa sì che, non funzionando più nulla, ciascuno ha più comodità nel buttare su qualcun altro le responsabilità di ciò che accade. Così succede sulle autostrade. E anche le propagande che vengono fatte da Toti o da altri su tutto questo non è che rassicurano le persone che, come me, per esempio, tutti i giorni si devono fare 40 chilometri e per farli ci mettono 2 ore invece che 40 minuti. Questa è la situazione oggettiva. Quando c'era il lockdown, noi non abbiamo visto cantieri aperti, abbiamo visto limitazioni di carreggiate, ma gli operai che lavoravano non ne abbiamo visti. No, guardi, che ci sia un ritardo in autostrade per l'Italia nella gestione di quella tratta è fuori discussione. Non sto mica, ci figuri se io giustifico Autostrade per l'Italia. Ho solo detto che il direttore della rete ci ha detto: noi avevamo fatto quella che per noi era la fase 1, c'è cioè una legge degli anni 60. Il ministero ha voluto che in questa fase venissero messe anche la parte, diciamo, che dovrebbe bloccare le infiltrazioni di acqua in gallerie molto vecchie. Ma che Autostrade per l'Italia sia arrivata tardissimo a fare la verifica, la manutenzione, e non parlo solo di lei, vedremo poi cosa capiterà negli altri gestori, è fuori discussione, e nel frattempo ha sempre beccato i pedaggi. Lo dico perché non ho intenzione di polemizzare con il Benetton, ma non ho neanche intenzione di stare buono e zitto. Senta, mi dica in una battuta, avete avuto qualche rassicurazione, perché devo chiudere, su quando potrebbe esserci una viabilità, dico, accettabile e non normale? Sì, rassicurazioni, guardi, è un'altra delle cose che in questo paese non mancano mai. Poi che le rassicurazioni si trasformino in fatti è tutt'altra questione, perché noi ancora ieri abbiamo letto una dichiarazione del ministro De Micheli che diceva che da oggi ci sarebbe stata percorribilità su 2 corsie e su tutte le strade. Oggi c'era l'interruzione tra Renzano e lo svincolo per l'Alessandria Voltri, per capirci. Sì, sì, 20 chilometri. Rassicurazioni, pacche sulle spalle, avete ragione. Allora, ci risentiremo la prossima settimana, perché non molliamo su questa cosa che riguarda sì gli italiani che si spostano per andare in Liguria per il fine settimana, ma riguarda anche e soprattutto il tessuto, le vene dell'economia del nord, ma non solo, perché poi è inutile continuare a dire che dobbiamo battere Rotterdam, che dobbiamo battere Anversa, se poi non riusciamo neanche ad avere le corsie per i camion. Grazie anche al Presidente Becce, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Maria Sole Di Sciandro e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio. Un augurio a voi di un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.